Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo di temi molto economici oggi, ma anche in parte finanziari. Economici perché? Perché la settimana scorsa abbiamo avuto ospite Remo Ruffini, numero uno, mi sono legato da Moncler, per un'operazione da oltre un miliardo e 200 milioni per acquisire tra gli altri il marchio Stone Island, e si è detto il tentativo era quello di creare un polo del lusso anche in italiano, visto che la maggior parte dei marchi del lusso italiano sono finiti nei due poli francesi, e quindi Arnault e Pinault. Ieri abbiamo annunciato, e oggi ne parleremo, un'altra operazione che riguarda sempre il settore non del lusso, ma comunque dell'abbigliamento, perché OVS ha presentato un'offerta vincolante, come ricordavamo ieri, per acquisire Stefanel, alcuni asset di Stefanel, che attualmente è in amministrazione straordinaria, e approvando ieri all'unanimità un aumento di capitale da 80 milioni. Quindi ci sono due business unit dentro Stefanel, quello Stefanel vero e proprio, a cui fanno capo il marchio e una trentina di negozi, e Interfashion con il marchio High. Però vorremmo capire poi se vi è anche un interesse verso altri, si è fatta la voce, è girata la voce di Combipel, e se anche questa non rappresenta un'operazione di consolidamento nel settore moda, che chiaramente in questo momento è in ginocchio come altri settori, per via non solo dei lockdown, ma per il fatto che siano venute meno molte occasioni per acquistare moda. Sappiamo che i negozi nella maggior parte d'Italia ormai sono aperti, in tutta Italia, perché nelle zone arancioni i negozi sono aperti, ma il problema è che c'è una minor spinta ad andare a fare acquisti al di là della disponibilità economica, anche in chi ha una disponibilità economica. E comunque ne parleremo, perché l'idea è appunto di vedere se si riesce a creare se si riescono a creare dei soggetti italiani. Nel caso di Stefanel e di OVS avremo un soggetto che va sia a produrre che a distribuire, quindi a fare concorrenza anche a H&M, che non se la passa bene, o a Zara. Il tutto, ne parleremo, in un paese che 20 anni fa era ancora il numero uno al mondo. Avevamo insegnato noi come si faceva la moda, il prêt-à-porter di fascia media con Benetton e Stefanel, appunto, e poi abbiamo ceduto il passo per vari motivi. Benetton perché la famiglia ha preferito concentrarsi su autostrade e autogrill, e a mio avviso ha mollato il colpo nell'accettare anche la competizione e la concorrenza internazionale, e infatti poi è arrivato Zara, è arrivato H&M e non solo. Ma noi siamo stati i primi al mondo dagli anni 80 in poi a vendere una moda accessibile in termini di costo, ma anche come dicono gli esperti, fashionable, cioè che seguisse la moda del momento. Stefanel invece ha avuto un altro percorso completamente diverso. Ne parleremo anche chiaramente dei mercati su cui do un aggiornamento unico, adesso, e poi ne commenteremo la chiusura. Più invariata Milano, più 0,30 Parigi, più 1,40 Francoforte, più 0,70 Londra, meno 0,20 il Dow Jones, Pirelli più 2,80, Nexi più 2,70, Amplifon più 2,5 come ricordati, Interpump più 2,30, Era più 1,80 come Inuit e Poste Italiane. Fronte opposto, Intesa San Paolo perde il 2,30, Leonardo pure, Prismian il 2,16, Unicredit meno 2, Banca Generali meno 1,5, Mediobanca meno 1,26%. Come sentite però dal valore degli indici, la giornata complessivamente poco mossa, FTSE MIB sempre vicino a quota 22.000 punti. Di finanza di borsa parleremo, perché c'è stata una nuova raccomandazione oggi della Banca Centrale Europea. Allora, che cosa era successo? A marzo c'è stato il divieto di distribuire dividendi per le banche, e anche di riacquistare azioni proprie. Perché? Perché si è detto, la Banca Centrale stessa ha detto, attenzione, visto il periodo di estrema gravità, di estrema emergenza, tenete i soldi in cascina, non distribuiteli come dividendi e non riacquistate vostre azioni, perché quei soldi devono servire, la dico male, insomma, per patrimonializzare la banca, visto che le banche potrebbero avere molte sofferenze dei prestiti concessi. Quindi non distribuite i soldi agli azionisti, in questo momento è prioritario avere liquidità nella cassaforte della banca. Allora, ci sono 30 miliardi, dopo quel divieto, di dividendi congelati in Europa, di cui 6 miliardi solo in Italia, questi dati della Banca Centrale Europea. C'è stata un'apertura oggi, però un'apertura con molti vincoli, cioè non si possono distribuire dividendi superiori al 15% degli utili accumulati nel 2019-20 o lo 0,2% del capitale CET1, beh, qui entriamo un po' nel tecnico. Però è necessario che il capitale della banca sia solido e serve un dialogo con gli istituti di vigilanza europea. Queste regole varranno fino al 30 settembre, quindi dell'anno prossimo ovviamente, e quindi si vuole evitare almeno fino a settembre che gli istituti più fragili siano segnati, diciamo, dallo stigma di non riuscire a diffondere dividendi e però alcuni obiettano che mettere una riga, una sticella così unica per tutti non aiuta a distinguere tra buoni e cattivi, cioè tra banche che possono distribuire o non possono distribuire dividendi. Ne parleremo. Comunque Enria, quindi Andrea Enria, il presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea, ha detto che il ritorno alla normalità dei dividendi non avverrà prima dell'ottobre 2021. Poi segnalo che oggi Crédit Agricole ha svalutato le sue attività in Italia, che è il secondo mercato dopo la Francia, per 900 milioni di euro alla luce del prolungato periodo di tasse e interessi molto bassi, che peserà sui margini di guadagno delle banche. Infine chiuderemo con il rapporto 2020 del G30, che la G30 è una cosa diversa dal G8 e G20, perché si chiama Group of 30, è un think tank di accademici e banchieri centrali, policy makers, che fa consulenza e fornisce consulenza sui temi di economia monetaria e economia internazionale. Ne fanno parte, tra gli altri, Mario Draghi, Raghuram Raya, ex governatore della Banca Centrale Indiana, l'ex consigliere di Obama Jason Furnham, Janet Yellen, ex governatrice e attualmente ministro, non ancora, ma sarà il ministro della presidenza Biden, ministro dell'economia della presidenza Biden, ex numero uno della Fed e quindi segretaria al Tesoro, ma anche economisti come Kent Rogoff e Paul Krugman. È stato pubblicato il rapporto di questi, di questo think tank, di questo centro, diciamo, di studi e di analisi sul 2020 e soprattutto sulla ricostruzione del tessuto imprenditoriale dopo l'epidemia. Ne parleremo, anche perché oggi spero di non toccare polemiche su virus e altro, e siamo ancora in attesa di capire quello che il governo deciderà su un eventuale ulteriore restringimento dei vincoli sotto le festività. È vero che i dati di oggi, che poco fa ha diffuso il nostro GR24, sono in miglioramento anche come tasso di contagio e quant'altro, però e anche come dati clinici c'è un miglioramento sia nelle terapie generali che in quelle intensive. Il numero dei decessi è ancora molto alto, ma sotto gli oltre 800 di ieri a 600, ma insomma è chiaro che non bastano, l'abbiamo capito, un giorno o due giorni, occorre guardare l'andamento della settimana. Il tasso di positività è sceso all'8,8% e le vittime sono comunque ancora alte, 680 vittime. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, andiamo con le notizie di carattere internazionale. Molti mi stanno scrivendo sui vaccini. Dunque, la situazione è questa: al di là dell'OMS che dice occorre usare le mascherine anche in casa durante le riunioni familiari a Natale, e c'è un alto rischio di una nuova ondata in Europa nel 2021, grazie all'OMS. C'eravamo forse arrivati anche noi. La Gran Bretagna, che è il primo paese al mondo aver dato via libera al prototipo di vaccino Pfizer-BioNTech, è arrivata a 140.000 vaccini in una settimana. Dunque, precisando che 108.000 persone hanno ricevuto la prima dose in Gran Bretagna, sono soprattutto anziani e operatori sanitari. Poi 18.000 in Scozia, 8.000 in Galles e 4.000 in Irlanda del Nord. E il fatto che la Gran Bretagna abbia iniziato prima, al di là dell'azzardo secondo alcuni, però dovrebbe permettere anche agli altri, lo dico in maniera un po' cinica, di vedere che cosa succede, visto che c'è una preoccupazione anche legittima sulle reazioni al vaccino. Così, beh, il fatto che a questo punto iniziano a essere decine di migliaia gli inglesi, i britannici che si sono sottoposti al vaccino, dovrebbe dare anche a noi europei, intesi come Unione Europea, qualche valutazione in più. Perché lo dico? Perché c'è un'idea a livello europeo, l'ho chiesto oggi la von der Leyen, che i vaccini nei paesi inizino tutti lo stesso giorno, e sapete che c'è stata un'anticipazione del piano vaccinale. Perché? Perché la Francia ha detto che l'inizio delle vaccinazioni comincerà dall'ultima settimana di dicembre, se vi saranno tutte le condizioni. La conferenza invece in Italia, Stato Regione, ha dato il via libera al piano vaccini presentato dal commissario Arcuri, e nei primi giorni di gennaio partirà la vaccinazione di massa. Verranno consegnate il 90% delle richieste di dosi avanzate dalle regioni, immaginando che non tutto il 100% del personale sanitario andrà a vaccinarsi. Però i primi italiani saranno vaccinati contro il Covid già subito dopo Natale e prima dell'inizio del 2021, se l'EMA, che è l'agenzia europea, nella riunione in programma 21 dicembre darà il via libera al farmaco della Pfizer. Questo dovrebbe essere il giorno simbolico in cui parte in tutta Europa. In Italia si partirà con 1.900.000 dosi, a cui poi farà seguito un'altra fornitura da 2.500.000 di dosi per appunto i richiami, e verranno somministrate. Le categorie prioritarie sono chiaramente operatori sanitari, sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani. Il rapporto del World Economic Forum di oggi è un rapporto in cui l'Italia non esce bene sulla capacità di resilienza e di ripresa. È in ritardo l'Italia in 9 delle 11 priorità affrontate. Ha sospeso quest'anno le classifiche tradizionali del World Economic Forum, però le 11 priorità identificate, raggruppate in 4 categorie principali: mercati e innovazione, capitale umano, ambiente e la variabile ambientale, quindi ambiente, capitale umano, mercati e innovazione. Le economie meglio messe sono Svezia, Finlandia, Olanda, Nuova Zelanda e Svizzera. In Europa la Germania ha un giudizio pari a 63 punti, la Francia 62, Spagna e Portogallo 56, noi siamo a 52 punti, siamo sotto anche Spagna e Portogallo secondo World Economic Forum, ma questo dovrebbe, da questo punto di vista, dare una spinta ulteriore al governo nell'indicare non quello che serve, perché lo sappiamo tutti cosa serve a sto paese ormai, ma come ottenerlo. Mi riferisco al recovery plan. Barisoni, lo farà il vaccino? Certo che lo farò il vaccino, però quando ne avrò la possibilità. Non penso di rientrare, da quello che ho visto, nelle categorie che devono vaccinarsi per primi. Immagino che vi sarà una campagna anche di comunicazione. A mio avviso molti me lo chiedono, sì, i testimonial del mondo dello sport, del mondo anche dei social, e anche il governo e anche i politici, opposizione e maggioranza, devono dare un segnale. Ricordiamoci cosa ha fatto la regina Elisabetta in Gran Bretagna, se vogliamo ricordarci di questo. Però adesso vedremo intanto che arrivino i vaccini subito agli operatori sanitari e le categorie più a rischio. Allora, veniamo all'Italia per quello che riguarda il ministro Amendola. Oggi ha detto che non c'è nessuna rottura nel governo, i temi sono risolvibili. La manovra, allora, il pacchetto auto, ce ne siamo occupati con i produttori di auto due settimane fa, che sarà inserito in manovra, si basa sul rifinanziamento di quanto già previsto nel decreto rilancio. Quindi l'extra bonus è confermato di 2.000 euro per veicoli elettrici e ibridi, aggiunti agli incentivi esistenti, e l'introduzione di un bonus di 1.500 euro per gli Euro 6 di ultima generazione. In entrambi i casi, se c'è poi la rottamazione, si aggiungono altri 2.000 euro di sconto richiesti al, uno sconto aggiuntivo di 2.000 euro richiesto al venditore. Sono stati tutti ritirati gli emendamenti di Leo sull'ipotesi di patrimoniale, e il ministro Catalfo ha detto che si sta lavorando per i liberi professionisti a un fondo da 1 miliardo. Poi su questo resta il tema di cosa fare delle parte IVA da fino ai 50.000 euro, l'anno bianco, l'ipotesi è questa, però finché non lo vedo scritto, e cioè l'anno prossimo chi ha una partita IVA, un libero professionista fino a 50.000 euro di, diciamo, di partita IVA, di fatturato, avrà un anno bianco, nel senso che non dovrà pagare contributi e altri versamenti, in questo senso un anno bianco. Il turismo oggi invece fa sapere che ha perso in Italia 53 miliardi di euro rispetto al 2019. Allora, per sulla scuola, adesso non voglio iniziare una polemica, l'Azzolina continua a dire stiamo lavorando con le regioni per il rientro a scuola, e lavoriamo con le regioni. La CGIL ha detto se non riapriamo la CGIL scuola è un fallimento dell'intero sistema italiano. Sono d'accordo totalmente con la CGIL in questo caso. E poi la CIS dice il problema è irrisolto nei trasporti, impossibile il 75% della presenza in aula. Cerchiamo di avere un po' di fantasia, nel senso che io, avendo per conoscenza visto che tutti gli studenti delle scuole superiori, ma anche gli ultimi due anni delle medie nelle regioni arancioni e nelle regioni rosse, insomma, sono rimasti a casa, con le regioni che come prima cosa hanno fatto hanno chiuso subito le scuole, e poi il problema è solo, diciamo, cosa fare dello shopping o di altre cose. Allora, basterebbe, non dico che tu debba tornare al 100% didattica in presenza, ma sempre meglio il 50% o il 75% come vorrebbero, per cento di didattica in presenza, che continuare a tenere i ragazzi a casa. Siamo l'unico paese che non riesce a riportarli almeno parzialmente a scuola. Non ci vuole un genio per capire che tra tutta la didattica a distanza e con tutti gli squilibri che crea, ne abbiamo parlato molte volte, e almeno il 50% di presenza, piuttosto che niente, meglio piuttosto, da questo punto di vista. Adesso magari non si arriva al 100%, basta che le regioni come prima cosa non mollino il colpo come sempre solo sulla scuola. Allora, sì, va bene. Guardate, adesso vediamo quando faremo il vaccino noi cinquantenni. Non lo so, non siamo alle categorie più a rischio. È ovvio che qualcuno dice: ah, io lo farò quando potrò, intanto vai avanti tu. Vabbè, ho capito. Non ci sarà l'obbligatorietà del vaccino, attenzione, poi vi possono essere delle restrizioni che possono essere decise, così come adesso tu non ti imbarchi se non hai o non vai anche in situazioni dove c'è pubblico, penso agli studi televisivi, se non ti sei fatto un tampone nelle 72 ore precedenti o ti fanno il tampone rapido, può valere la stessa cosa per il vaccino, visto il ragionamento fatto dalla Qantas in Australia, che dice si imbarcheranno sugli aerei solo quelli che avranno il certificato che dimostri che ha fatto il vaccino, quindi l'obbligo no. Dopodiché è giusto anche che i privati, lo Stato si tutelino e dicono va bene, tu non hai fatto il vaccino, non hai fatto il tampone, non entri, non parti, non ti muovi. Va bene, Zaia è d'accordo con Boccia e Speranza, serve la zona rossa in tutte le feste di Natale, almeno fino alla la Befana. Toti invece è contrario, il governo non può imporre alla Liguria la zona rossa. Poco fa invece si è tenuta l'assemblea annuale di Confesercenti, non ha partecipato il Presidente del Consiglio perché è ancora impegnato nell'incontro Stato-Regioni proprio sul tema delle zone rosse o o meglio delle restrizioni nuove per quello che riguarda il periodo natalizio. Confesercenti oggi in assemblea annuale dice sono a rischio 150.000 imprese e 400.000 posti di lavoro. Sentiamo questo passaggio della presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise. Non c'è dubbio che le imprese del commercio, del turismo, dei servizi siano quelle su cui più di altre si è abbattuto e continua ad abbattersi il peso della crisi pandemica. A causa del Covid sono a rischio chiusura 150.000 imprese, 80.000 nel commercio e 70.000 nel turismo, nella somministrazione e nei servizi. Sono a rischio circa 450.000 posti di lavoro. I consumi sono ai minimi storici, 110 miliardi di euro in meno. Per alcuni comparti, nonostante i ristori e i sostegni, si rischia veramente il collasso. Nel turismo, lo abbiamo sentito dai colleghi, nel turismo, ricettività e pubblici esercizi, fra quelli rimasti aperti, si può già stimare una perdita annuale superiore al 50% del fatturato, superiore al 30% nel comparto della moda, per citarne solo alcuni, e per non parlare poi di quelli che non hanno più riaperto, turismo congressuale, palestre, servizi alla persona. E poi la De Luise è dura, critica sull'incertezza del governo in questi giorni sulle chiusure di Natale. La situazione è ancora pesante e non vede soluzioni imminenti. Aspettiamo con ansia tutti i vaccini nel 2021, ma sappiamo che avremo davanti ancora dei mesi molto difficili. Ci vorranno almeno 2 anni prima che l'economia in Europa torni ai valori pre-Covid. Vedete, per le nostre imprese la priorità è lavorare e tutte sono in grado di garantire la massima sicurezza. I rumors di queste ultime ore ci stanno preoccupando moltissimo, ma se l'andamento epidemiologico dovesse riportare un nuovo lockdown, lo si faccia con chiarezza, non si lascino le imprese nell'incertezza. Contestualmente all'annuncio delle restrizioni, le imprese devono avere i necessari sostegni con chiarezza, immediatezza e semplicità. Un apri e chiudi continuo azzera le energie e crea uno sconcerto. L'impresa deve programmare, investire e per farlo ha necessità di sapere quali decisioni verranno prese in tempo utile. In Germania la chiusura è stata annunciata con 1 settimana di anticipo e le imprese da subito sanno che riceveranno il 75% del volume perso nei mesi di novembre e dicembre. E qui ci sono due amare verità. Uno, è chiaro che la Germania dà dei ristori, diciamolo come, molto più alti di quelli italiani. La Germania ha una situazione economica diversa da quella italiana e può permettersi di fare più debito, è inutile girarci attorno, e lo ha già annunciato. Poi c'è il tema di quello che gli inglesi chiamano stop and go. Guardate, qui il dibattito è molto acceso, perché è chiaro che per chi ha un'attività di impresa rivolta alla clientela, quindi il mondo dei negozi, degli esercizi commerciali, è molto difficile stare dietro a aperture, poi chiusure, poi riaperture, chiusure. Dall'altro lato però, e qui il modello, lo ricordavamo nei giorni scorsi, è arrivato alla Gran Bretagna, è stato seguito anche dalla Francia in parte, il tentativo è quello di non chiudere tutto, cioè di andare con quello che si chiama appunto stop and go per tenere aperte il più possibile le attività o comunque farle chiudere per un tempo più limitato, cosa che si è fatta in questo secondo lockdown anche in Italia, non c'è paragone rispetto alle chiusure del primo lockdown di marzo e aprile. Sono due scuole di pensiero diverse, cioè chi dice chiudiamo tutto per un mese, zona rossa in tutta Italia. Il tentativo, ripeto, anche in Gran Bretagna, che ha diviso il paese per aree, è di dire cerchiamo di mantenere aperte le attività commerciali in alcune aree da dove i casi sono più bassi e comunque con le tre categorie in Gran Bretagna e le tre categorie in Italia cerchiamo di ridurre l'impatto complessivo delle chiusure, perché chiudere tutto adesso vuol dire chiudere, tornare al livello di marzo e aprile in cui i ristoranti facevano solo delivery ma neanche asporto, i negozi erano chiusi, insomma ce lo ricordiamo. Sono due approcci diversi, quindi attenzione, non è frutto così di una casualità, è proprio previsto dal piano delle regioni con diversi colori e con diverse quindi aperture e chiusure. Poi la De Luigi ha fatto notare che dal sondaggio pubblicato dall'SVG il 46% degli intervistati ha già fatto acquisti per Natale, di questi il 60% lo ha comprato online. La paura degli assembramenti, le code e le code che si registrano all'esterno favoriscono l'acquisto online. Spenderemo comunque tutti meno, lo stop delle vacanze congelerà 12 miliardi di consumi turistici, se vi sarà un lockdown durante le feste il colpo per gli esercizi, per i negozi e i pubblici esercizi sarebbe di 10 miliardi di euro, di cui 3 miliardi in meno in consumi in bar, ristoranti, 7 miliardi in meno in acquisti di beni e prodotti. Noi restiamo sul mondo del commercio. Yellow is the new red, sì, vabbè. Nel mondo del commercio per l'operazione di OVS, dopo però il meteo e la pubblicità. Focus Economia. Sì, qualcuno mi scrive sul 349-238-6666 di Zaia. Allora, visto Zaia oggi molto preoccupato, chiede la zona rossa, ha definito immondo lo spettacolo dell'assalto alle città. Però non condivido con il presidente Zaia la chiusura delle scuole, la non riapertura delle scuole. Scusate, mi invento, avete tenuto, lo so per certo, ma ho testimonianze che mi hanno raccontato. I bar e ristoranti alle 6, cioè non è che adesso siccome abbiamo ottenuto bar e ristoranti aperti fino alle 6, lo shopping così, la prima cosa è non si riaprono le scuole. No, proviamo a vedere se forse l'aperitivo spostato e anticipato, questo è un paese che ormai sembra vivere sull'aperitivo, spostato e anticipato alle 5, perché era questa l'abitudine che si è creata a Verona, come a Venezia, a Treviso, come a Padova, e parlo solo dei capoluoghi di provincia, non abbia creato, visto che non avveniva solo all'aperto ma anche all'interno, non abbia creato questo aumento incredibile dei contagi e dei decessi in Veneto. Troppo comodo dire a questo punto, visto che abbiamo tenuto lo spritz alle 5, non riapriamo le scuole, per favore Presidente. E noi restiamo in Veneto, per modo di dire, ma andiamo da Stefano Beraldo, che è l'amministratore delegato di OVS. Buonasera Beraldo, innanzitutto. Buonasera. Allora, ma non per parlare di zone rosse, ci mancherebbe, perché voi ieri avete presentato un'offerta vincolante per acquisire alcuni asset di Stefanel, azienda attualmente in amministrazione straordinaria, e nel frattempo avete approvato ieri con l'unanimità un aumento di capitale da 80 milioni. Prima domanda, poi arriviamo invece alla visione complessiva. Quali asset vi interessano di Stefanel? È vero che volete continuare con una campagna di acquisizioni? Si è parlato anche di Combipel. Beh, allora, quali asset? Sicuramente il marchio è un marchio importante, storico, molto conosciuto dagli italiani e non solo dagli italiani, associato soprattutto alla maglieria donna, quindi confermiamo l'interesse per questo bel marchio, confermiamo anche l'interesse per la rete commerciale che in questo momento è rimasta, quello che è rimasto della rete commerciale in Italia, e quindi intendiamo provare a valorizzare quello che questo marchio può esprimere. Crediamo di avere quelle capacità industriali e quella progettualità che ci può consentire di sperare, può consentire credo a tutti, perché è un bel marchio italiano che sarebbe un peccato non avesse un futuro. Dicevo, questa capacità industriale che abbiamo abbinata a questo marchio e anche alle persone di talento che abbiamo all'interno della nostra azienda, a partire da Massimo Piombo come direttore stilistico in questo momento, credo che l'unione di queste forze possa essere una buona speranza per il rilancio di questo marchio. Per quanto riguarda le altre invece ipotesi che cui accennava, sì, è vero, noi dobbiamo prendere atto, purtroppo, lo dico con rammarico, che la stretta alle aperture commerciali e quindi la sciagura che ha toccato alcuni segmenti più che altri, il turismo certamente, il commercio e la produzione e la commercializzazione di prodotti di abbigliamento nel nostro caso è stato micidiale per molte aziende, quindi l'ultima spallata con la chiusura dei centri commerciali nel mese di novembre e dicembre sta mettendo molte aziende in condizione di non farcela, e quindi purtroppo ci troveremo il prossimo anno con diversi nomi. Lei ha citato Combipel, che è già in una situazione di decozione, in questo momento è una procedura che prevedeva una concordato in bianco, credo si stia virando verso un'amministrazione straordinaria anch'essa. Ma non è l'unica che si trova in situazioni di difficoltà oggettiva e conclamata, quindi noi abbiamo ritenuto che, in quanto un po' la nostra storia recente degli ultimi 10-15 anni è quella di consolidare un mercato come quello italiano molto frammentato e rappresentando, non dico l'unica, ma sicuramente la più grande, diventata tale e tra le poche formule che ci possono ancora consentire di crescere nel paese rafforzando un comparto a beneficio poi alla fine di un'intera filiera, noi facciamo il nostro mestiere, quindi abbiamo proposto ai nostri azionisti di assecondare questa visione di ulteriore crescita. Sono quindi molto vi interessa Combipel? Ma non l'abbiamo mai smentito, nel senso che era stata già dichiarata un po' questa cosa, era stata ripresa, noi non abbiamo smentito che ci interessa Combipel. Solo che i procedimenti e la burocrazia italiana sono talmente strani che costringono aziende che avrebbero già trovato magari una soluzione per aspetti puramente legati alle procedure burocratiche a non poter essere trasferiti perché devono passare le forche caudine di un processo di aste competitive, arrivano fantomatici offerenti, fanno delle offerte non garantite, i tempi si allungano, l'unico risultato è che i dipendenti di queste aziende e i risultati di queste aziende peggiorano, le prospettive per i dipendenti peggiorano e il fardello di debiti aumenta. Quindi purtroppo Combipel oggi è più gravida di debito di quanto non lo fosse quando noi l'abbiamo guardata diversi mesi fa. Però vedremo, insomma. Ha qualche altro marchio in mente? Beh sì, però questo non glielo posso dire, ma purtroppo sì. Ci devo provare. Purtroppo sì, lei dice, perché sono marchi o gruppi che andranno in crisi anche con la spallata del Covid. Sì. E qui vengo alla visione globale, perché dicevo in apertura, noi abbiamo avuto ospite Remo Ruffini la settimana scorsa per l'operazione di Moncler su Stone Island, 1,2 miliardi. E lui ha detto, ma insomma, io penso che ci sia spazio per cercare di creare un polo del lusso, in questo caso il lusso italiano, e non consegnare tutti i marchi al duopolio francese, quindi Louis Vuitton, Moanessi e KKR, quindi Pinot e Arnaud. Cosa che è avvenuta per molti marchi del grande lusso italiano, Gucci, Bulgari, Bottega Veneta, potrei andare avanti. Lei opera in un settore di fascia medio-alta, però fa sia il distributore che il produttore, perché lei produce anche con marchi, adesso con Stefanella è andata a produrre ancora di più. Allora, lei ritiene che vi sia lo spazio per un po' dei poli italiani, perché quello che è in mente, da quello che ho capito, Moncler è diverso da quello che è in mente lei, ovviamente, ma insomma, per aggregare un po' di marchi e non diventare solo, mi passi il termine, terra di conquista? Assolutamente sì, io applaudo l'iniziativa di Remo Ruffini e penso che sia anche geniale il tipo di scelta che ha fatto rispetto all'aggregazione, spostandosi su un concetto di lusso molto meno paludato e molto più, diciamo, easy e sportivo, seppure con grandissima attenzione alla qualità. Però questo non è mestiere mio, come giustamente lei ha detto, io faccio un altro mestiere, il mio posizionamento è tutto sommato opposto a quello di Moncler e Stone Island, è un posizionamento rivolto a tutte le famiglie italiane, a tutti gli italiani per necessità di ogni giorno. Quello che ci accomuna, semmai, è quello di cercare disperatamente, io almeno, con i prezzi a cui sono costretto dal mio posizionamento, di dare il meglio che io posso dare a questi prezzi, ed è per questo che cerco di contornarmi sempre, 15 anni fa con Elio Fiorucci, oggi con Massimo Piombo, ieri qualche anno fa con Ennio Capasa e la sua Costume Nazionale, di circondarmi e di farmi aiutare da chi è più bravo di me in quello che fa. Certo, la vocazione è questa, cioè noi siamo partiti come OVS tanti anni fa, abbiamo acquisito Piombo, abbiamo acquisito Upim da una procedura concorsuale, pre-concorsuale, con grande successo. Oggi Upim realizza un bel fatturato. E avete anche Coin, certo, dentro. Beh no, Coin l'abbiamo esternalizzata da questo perimetro. Io di Coin sono socio, sì, certo, un altro gruppo di imprenditori. Ma ecco, però mi dica una cosa, Berardo, perché intanto qualcuno mi fa notare, è magari Paul Zileri il marchio che le interessa? No. Pozzileri è un altro tipo di posizionamento. Io credo che stiamo già, in questi anni io ho acquisito 8 aziende in Italia, Jana, Mela Blu, Tem, Upim, quindi diciamo noi facciamo un mestiere che è quello di aggregare negozi e ora anche marchi che siano comunque coerenti con il nostro posizionamento, di posizionamento più basso rispetto a quello veniamo... che ha citato lei. Sì, certo. Veniamo alla domanda delle 100 pistole però, Beraldo. Allora, lei viene dal gruppo Benetton, io conosco la sua storia, insomma ha lavorato a lungo, no? Con il gruppo Benetton. Io vengo dalla holding. Dalla holding, per carità. Sì. Allora, io ho avuto parole molto critiche anche nel libro che modestamente ho scritto su come l'Italia abbia perso la leadership mondiale che avevamo negli anni 80 e 90. Mi riferisco appunto a Benetton, a Stefanel, abbiamo insegnato al mondo come si produceva moda a basso prezzo, ma moda. E poi con grande mia sconfitta e cioè anche amarezza ho visto arrivare da noi Zara ed H&M, perché Stefanel è andata in procedura di amministrazione straordinaria e a mio avviso Benetton si è distratta, o meglio si è concentrata più su autogrill e autostrade che su una competizione, diciamo, di quello che era stata la nostra chiave di successo. Vorrei sapere in primo luogo se è d'accordo con questa analisi, sì o no? Sono d'accordo e ricordo molto bene Gilberto Benetton a dirmi che era molto più difficile competere vendendo magliette che non competere avendo a disposizione grandi economie di scala, grandi barriere all'entrata e grandi oligopoli o monopoli, con grande lucidità lo diceva 10 anni fa, e quindi la risposta è sì, sono d'accordo. È molto difficile restare competitivi in un'industria dove non ci sono queste barriere all'entrata. È un peccato, naturalmente, che i brand che lei ha nominato non siano riusciti a mantenere questa posizione di leadership. Però se andiamo a vedere bene a chi faceva il lavoro simile a loro, non si può imputare tutto l'insuccesso alle presunte incapacità manageriali di chi li ha gestiti, perché qui non è che tutti siamo fenomeni, cioè che alcuni sono fenomeni e gli altri non capiscono niente. Se guardiamo brand simili come Esprit, per esempio, Esprit è un brand leader mondiale, un brand europeo che si trova in una situazione molto simile a quella di Benetton, cioè di difficoltà a realizzare profitti, è stato passato di mano diverse volte. E qui vengo alla seconda domanda, perché sì, io aggiungo io, ma non è un commento suo, è un commento mio, e poi a maggior ragione il ragionamento di Gilberto Benetton valeva se tu ottenevi dallo Stato simili contratti, poche verifiche, pochi controlli sull'aumento del pedaggio dei ricavi a fronte degli investimenti non fatti. Però questa è la mia giudizio, non mio, diciamo, c'è anche un'inchiesta in corso, però non voglio che diventi suo, non voglio mettere in difficoltà. Altra cosa però è, allora, visto che noi abbiamo perso un'opportunità, e aggiungo un grosso peccato che nella zona di Treviso, dove è nato il gruppo Benetton, o comunque nel Veneto, non si sia creato un polo di ricerca, di università, combinato con impresa, di come si fa a fare moda a poco prezzo, in modo da avere tutti che vengono a studiare qua, a imparare qua, cioè avevamo una carta incredibile. Poi chiaramente, per usare l'espressione di Ricolfi, è più facile fare i rentier, quindi gestire le concessioni o fare la società signorile di massa, che continuare a combattere sui mercati. L'ultima domanda è questa, Beraldo: e allora perché non fate un'offerta su Benetton? Io faccio un prima di rispondere alla sua domanda, faccio un commento sulle considerazioni che ha fatto prima. In realtà qualche cosa in Veneto potrebbe ripartire. Bene. Naturalmente è un periodo storico, no? C'è stato un periodo storico in cui per riuscire a realizzare produzioni a prezzi accessibili, con qualità adeguata, non si poteva continuare a produrre in Italia. Quindi questi posizionamenti, questo ha riguardato altre aziende. Io ho fatto l'amministratore delegato di De Longhi per molti anni. De Longhi, sì, certo. E ne sono orgoglioso e contento. Siamo stati costretti, per salvare l'azienda, il marchio, la produzione. È vero, l'abbiamo raccontato anche, andare in Cina. A migrare anche in Cina con una parte delle nostre produzioni, no? Mentre altre produzioni più tecnologicamente avanzate, cioè le macchine automatiche del caffè, sono state in Italia. Ora i tempi sono cambiati. I salari in Cina non sono più quelli di 15 anni fa, dove il gap era mostruoso e quindi era impossibile restare sul mercato producendo in Italia. Oggi, per fortuna, questo allineamento, diciamo, delle condizioni anche di costo a livello mondiale consente anche all'Italia e quindi anche al Veneto di pensare, se lo vuole, a un'intelligente politica di reshoring, cioè di riportare in Italia alcune produzioni. E noi siamo pronti a cogliere una sfida che eventualmente anche il governo volesse raccogliere. Perché per me sarebbe facile, con i miei volumi, assicurare a un'azienda che industrialmente si volesse riposizionare in Italia volumi di ordini tali da giustificare il setup di un impianto da 500 dipendenti, per dire. Quindi alcune cose bisogna volerle. Per quanto riguarda il Veneto come luogo dove potessero diciamo, nascere o rinascere anche situazioni aggreganti, ricordo che per esempio con l'Università di Padova, quindi il Veneto, abbiamo appena concluso un'operazione lunga di lavoro sulla sostenibilità che ha fatto poi scaturire quello per cui oggi siamo stati considerati da Global Fashion Agenda tra le prime 10 aziende al mondo per innovazione nella sostenibilità, per il nostro ecovalore, una specie di carta d'identità che abbiamo introdotto, per cui se lei va in internet e clicca in uno dei nostri prodotti e scopre di ciascun prodotto fornitore, consumo di acqua, consumo di ossido di carbonio, ho 30 secondi eccetera. Le interessa Benetton o no? Io cercavo di andare avanti per evitare di rispondere a questa domanda. Ho capito, no? Però io GR24 troppo complicato. Sì, troppo complicato adesso un'offerta. Troppo complicato. Magari in futuro? Troppo complicato. Va bene. Allora, grazie anche a Stefano Beraldo, amministratore delegato di OVS, che ci ha raccontato l'operazione anche con Stefanel e confermato l'interesse per Combi. Per andiamo sul GR24. Ma è possibile che c'è? Le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto? Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte? No. Ah, ecco, si capisce. Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24. In modo che un giorno non potrete dire io questa mica la sapevo. Tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo le agenzie, dunque nulla di fatto ancora. L'unica cosa certa è che si va verso un restringimento ulteriore. Stanno girando anticipazioni di una zona rossa in Italia nei giorni festivi, incluso la vigilia di Natale, quindi 24 e il 31. Il resto dei giorni coprifuoco a cena, però sono anticipazioni da prendere con le pinze. Quello che è invece sicuro, oltre al fatto che arriveranno altri restringimenti, e molte regioni ne hanno chieste, vedo adesso una dichiarazione anche del presidente della Puglia Emiliano, che noi siamo d'accordo per fare zona rossa fino al 7, perché è l'unico modo per non avere una terza ondata. L'unica cosa certa è che il governo si riaggiornerà per permettere anche la partecipazione del ministro Bellanova, che sta rientrando da Bruxelles. Il nuovo vertice dovrebbe tenersi o stasera o domani per le nuove strette sul periodo festivo. Allora, adesso andiamo su un tema che può sembrare, diciamo, tecnico, ma non lo è. Si tratta dei dividendi delle banche. Non lo è perché molti ascoltatori possono essere anche azionisti di aver comprato titoli bancari. E che cosa è successo? A marzo la Banca Centrale Europea e il Consiglio di Vigilanza, che è guidato dall'italiano Andrea Enria, ha bloccato tutti i dividendi delle banche, perché dal 6 divieto imposto a marzo. E perché l'idea era questa: attenzione, non potete, con questa incertezza, con questo bisogno di capitali, con il rischio di avere nuove sofferenze, cioè creditori che non riescono a ripagarti, e dovete mantenere alto il patrimonio delle banche, la liquidità, e quindi non distribuite dividendi ai vostri azionisti né riacquistate azioni proprie. E si calcola che in questo momento vi siano circa 30 miliardi di dividendi che non sono stati distribuiti dalle banche, e di cui 6 in Italia, congelati. Ora c'è un'apertura del Consiglio di Vigilanza che ha detto sì, potete distribuirli, ma fino al 30 settembre del 2021 non devono essere più del 15% degli utili accumulati nel periodo 2019-2020 e lo 0,2% del capitale CET1. E comunque dovete parlare con la Vigilanza Europea Banche se volete distribuire i dividendi. Allora, la decisione da un lato, e grazie per averci aggiunto in collegamento il professor Marco Nado, che è senior professor all'Università Bocconi e di Milano, nonché editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera professore. Buonasera a voi, grazie. Allora, chi è a favore della decisione dice, beh, in questo modo evitiamo lo stigma, cioè che le banche più fragili vengano messe a nudo nel non riuscire a distribuire dividendi. Nessuno può distribuirli se non per una quota bassa, e quindi evitiamo che il mercato inizi a dire ecco la banca X non ha distribuito dividendi, la banca... E questo, diciamo, è l'elemento a favore. I critici dicono attenzione però, mettere una riga orizzontale, cioè massimo il 15% degli utili accumulati nel 2019-2020, rischia di fare di non distinguere tra buoni e cattivi, cioè trattiamo tutti allo stesso modo. Vorrei sapere intanto cosa ne pensa lei. Ma, innanzitutto va ricordato che questa misura è stata presa da tutte le banche centrali, perché l'ha presa la Fed americana, la Bank of England e la BCE, perché all'inizio della pandemia era necessario che le banche non trovassero la giustificazione o la causa di una scarsa offerta di credito nella inadeguatezza del patrimonio, perché così era successo nel 2010. Quindi era giusto a marzo prendere un provvedimento anomalo, dico subito perché, perché la priorità era garantire che il credito continuasse ad affluire alle imprese. Il provvedimento era però anomalo, perché c'è un diritto al dividendo degli azionisti e quindi questa misura non poteva che essere temporanea e giustificata da condizioni assolutamente eccezionali. Tant'è che un autorevole membro del consiglio direttivo della BCE ha detto che era ai limiti della legalità, ha detto lui, non noi. Questo, adesso la situazione è un po' migliorata e anche qui sia la Bank of England sia la BCE hanno riaperto e quindi dato disco verde alle banche, ma con limiti. La differenza fondamentale tra l'Inghilterra e l'Europa è che la BCE è stata un pochino più stretta nei limiti e li ha subordinati anche a una supervisione da parte della stessa vigilanza. Mentre la Bank of England si è limitata a responsabilizzare fortemente i consigli di amministrazione. Quindi lei dice, se ho ben capito, non si poteva andare avanti ancora a lungo col blocco dei dividendi perché si rischiava anche quasi un elemento di incostituzionalità, e quindi ben venga un minimo di aver allargato un pochino le maglie. Le chiedo, ma è più pericoloso mettere una riga orizzontale per cui non si capisca chi sono i buoni e i cattivi, la dico male, ma insomma per farmi capire. Attenzione, perché i buoni e i cattivi, cioè i dividendi vengono dall'utile, i buoni e i cattivi sono quelli che hanno utile i primi e quelli che non hanno utile e dice, già si vede. Già si vede. E quindi secondo lei in questo modo verrà evitato, però allora di converso, il cosiddetto effetto stigma, cioè che poi si vada a guardare sul mercato chi riesce a distribuire più o meno dividendi, invece mettendo un tetto del 15% dovresti... Sì, perché diciamo la cosa è palese, insomma, non credo che ci siano delle banche che hanno registrato un utile e che non sono in grado di pagare il 15% di quel o lo 0,2% del capitale. Quindi mi sembra un giudizio complessivamente positivo. Ricordo un'ultima cosa a chi me la chiede, perché oggi ha parlato anche Henry, appunto, bisogna evitare uno shock. Abbiamo scongiurato già uno shock improvviso sugli NPL, cioè sui crediti che diventano sofferenze, non performing loans per essere precisi, e questo va fatto anche nel futuro. C'è una strategia per aiutare le banche a liberarsi degli NPL, creando una specie di bad bank europea. Però quello che ha annunciato oggi la Banca Centrale Europea, lo ricordo agli ascoltatori, andrà avanti fino al 30, vale da gennaio, quindi adesso nulla, da gennaio fino al 30 settembre del 2021, quindi se ne riparlerà da ottobre dell'anno prossimo, quindi tra quasi un anno. Grazie anche al professor Marco Nado. Andiamo sul traffico e poi invece cosa è emerso dal rapporto del G30, che non è non c'è il traffico perfetto. Allora andiamo subito sul rapporto del G30, che non c'entra nulla, lo dico, con il G8 e il G20. Lì sono i capi di governo, i capi di Stato dei paesi, dei 20 paesi più industrializzati, prima erano i 7, poi 8. Il G30 è quello che gli inglesi chiamano un think tank, cioè un gruppo di lavoro, di pensatori, mettiamolo così, di consulenti, fatto da accademici, da banchieri centrali, da policy makers. Per dire, ne fanno parte Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea, Raghuram Rajan, ex governatore della Banca Centrale Indiana, Jason Furnham, l'ex consigliere di Obama, e soprattutto Janet Yellen, che è ex governatrice della Federal Reserve, ma anche attualmente nominata ministro dell'economia, segretario al tesoro della presidenza Biden, e poi economisti del calibro di Kenneth Rogoff e Paul Krugman. Si è concentrato il rapporto 2020 sulla ricostruzione del tessuto imprenditoriale dopo l'epidemia. Io spero che il governo, spero che chi sta lavorando al recovery plan legga anche questo rapporto. C'è sicuramente una seconda ondata, si legge nel rapporto, anche nelle conseguenze economiche della pandemia. Faccio notare, ahimè, che oggi la Germania ha già ridotto le stime di crescita sul PIL 2021, portandole dal 5% al 4,2%. Non è un bel segnale nemmeno per noi che abbiamo nella Germania il principale mercato di esportazione. Però dice un'altra cosa. Draghi ha detto: stiamo entrando in una nuova era nella quale saranno necessarie scelte che potrebbero cambiare profondamente le economie. Lo sforzo compiuto finora è stato ben fatto, era necessario, ma ora occorre passare a una fase molto più delicata, perché più selettiva. Si dovrà decidere, e bisogna capire chi dovrà decidere, quali società dovranno essere aiutate. Occorre fare politiche selettive, perché c'è il rischio di creare masse di imprese zombie che sopravviveranno a stento mantenendo in piedi un'inefficiente allocazione delle risorse. E poi dice sempre Draghi: occorre puntare le piccole e medie imprese, una collaborazione tra pubblico e privato. Trasformare i debiti garantiti dallo Stato in azioni potrebbe essere una strada percorribile, poi altri elementi, nuove regole sulle liquidazioni. È un tema delicatissimo quello che tocca Mario Draghi. Professor Franco Bruni, che insegna economia monetaria internazionale all'Università Bocconi, vicepresidente dell'ISPI, buonasera anche a lei. Buonasera. È un tema delicatissimo perché nella fase di emergenza abbiamo dovuto cercato di salvare tutti, so che non è stato possibile per migliaia di operatori, per esempio del commercio e del turismo. Però, se ho ben capito il ragionamento di Draghi, dice: guardate, le risorse non sono illimitate. Adesso sì, c'è il recovery, ma anche il recovery, le risorse, guardiamole bene, 80 miliardi ci servono, aggiungo io, per non aumentare il debito, spendibili sono poco più di 100. E dice, bisognerà fare politiche selettive, e perché sennò c'è il rischio di dare soldi a aziende che vengono mantenute in vita, diciamo, artificialmente. Dall'altra parte però, professor Bruni, questo è un tema politico delicatissimo, perché chi decide e come decide, e soprattutto la politica può essere molto restia a dire sì, questo è un processo di allocazione corretta delle risorse economiche, ma io poi devo gestire l'opinione pubblica. Sì, c'è questo problema, di cui peraltro il rapporto del G30, che mi associo a lei, mi piacerebbe molto che leggessero con grande cura i nostri governanti, è anche scritto molto bene. Si occupa anche di come queste decisioni debbano essere prese da un punto di vista della governance politica e come adattate a degli ambienti specifici e diversi, perché il G30 guarda a un problema, diciamo così, mondiale, però poi ogni paese e ogni regione del mondo ha il suo modo di declinarlo, e ci sono dei suggerimenti e dei questionari che andrebbero meditati. Rispondendo a questi questionari di vario tipo si riesce un pochino a capire quali sono i passi politici, comunque molto difficili. Fra l'altro il rapporto dice chiaramente che occorre resistere alle pressioni politiche di breve periodo, perché qui si tratta di guardare a lungo per scegliere le imprese che hanno più possibilità di crescere davvero e concentrare lì lo sforzo. Sì, ecco, poi, tra il dire e il fare, però, e qui mi dispiace essere critico, ma insomma, occorrono le competenze. E in Francia il rapporto, nel caso del recovery, quando devi intervenire con le aziende, coinvolgi le imprese o il loro manager o comunque le associazioni di imprese, la Confindustria francese, non solo. Qui io noto un'assenza di interlocuzione con il mondo delle imprese, che non vuol dire solo la Confindustria, vuol dire anche la Confcommercio, la Coldiretti, la Confagricoltura. Cioè, per cui, e poi chi riesce a, perché le competenze sono quelle che ti permettono di dire: guardate, non possiamo mettere soldi in un settore, in un gruppo di imprese, perché tanto stanno andando verso una morte, e dobbiamo usare questi soldi per altri settori che invece hanno bisogno di un rilancio e possono correre con le proprie gambe. E chi ce l'ha sta competenza, Bruni? Il rapporto dice chiaramente che occorre una partnership tra l'azione dei governi e l'azione del settore privato, compresi i grandi investitori, le grandi banche, le associazioni, tutto quanto. Deve essere un lavoro fatto in grande cooperazione fra la politica e il management e le imprese. Però, mi scusi, ci sono alcuni principi di lavoro per il futuro che vanno sottolineati enormemente, cioè la revisione delle regole di bankruptcy, delle leggi fallimentari, dei procedimenti fallimentari, sì, per favorire le ristrutturazioni senza mandare in fallimento, molto importante. Molto importante sono le partnership, appunto, pubblico e privato, che sono immaginate per capitalizzare le imprese. Questo è un secondo, diciamo, principio fondamentale. Se non mettiamo capitale nell'economia, a costo di fare anche del capitale pubblico, insomma, partnership con i privati, è finita, perché il problema è che si è consumato il capitale in questi e questo è l'idea centrale da cui parte il rapporto. Il Covid, a differenza della crisi del 2008, consuma proprio il capitale quando il capitale è finito, quindi bisogna, e fra l'altro siamo partiti da una situazione, e il rapporto ha dei dati impressionanti, in cui il leverage delle imprese era molto più alto di quello da cui è partita la crisi del 2008, quindi qui quindi il capitale rispetto al totale delle attività era, ma per questo che io spero che il governo e non so, Conte, ma anche chi sta scrivendo, legga con attenzione questo rapporto, perché poi non c'è solo, a differenza del recovery plan che abbiamo in mano, che ha tanti bei titoli e poca ciccia dentro, perché a parte dire bisogna innovare, digitalizzare, ho capito, lo diciamo da anni, dimmi come, con che progetti, con che modalità operative. Nel rapporto del G30 invece ci sono, come lei ricordava, suggerimenti concreti. Le nuove regole sulle liquidazioni devono permettere alle imprese di non saltare per aria e ristrutturare i debiti, perché se vai a usare il meccanismo del pre-Covid è chiaro che qua praticamente passa la falce, non passa, diciamo, la ristrutturazione. Certo. E gli interventi sull'equity, che vuol dire il capitale nello specifico, per esempio i debiti garantiti dallo Stato, sappiamo che ci sono 1.300.000 richieste di debiti, di cui parte sono i 30.000 euro, ma la fetta grossa come valore sono le garanzie dei Confidi, dello Stato, della CDP. Propongono i 30, trasformatele i debiti in capitale, in azioni. Mi sembra che, insomma, che ci sia più di uno spunto, resta in evaso. Ma poi, scusi, importantissimo il cambiare le regole di detrazione degli interessi, che sono esagerate, sì, certo, dalle imposte, e invece rendere detraibili le perdite di capitale, che sono molto, molto poco detraibili in alcune legislazioni. Quindi sono proprio dei suggerimenti anche molto concreti su cui lavorare. È difficile da mettere in pratica subito, ma bisogna mettersi al lavoro. Ecco, e bisogna mettersi al lavoro per proposte concrete e basta con i piani. Se io vedo che il prossimo testo sul recovery plan di nuovo è fatto di grandi titoli, colori, soldi aggregati e nulla di concreto, iniziamo una campagna qua ogni giorno, così come la stiamo facendo sui musei. Oggi ho dimenticato di dirlo, il ministro Franceschini deve ancora farmi capire perché si possono aprire tutte le cose ma non i musei, qual è il problema nella gestione del flusso ai musei, qual è il problema di tenere 5 persone in sala con la mascherina, sicuramente più basso rispetto ai ristoranti e ai bar. Non ce l'ho con i bar e i ristoranti, ci mancherebbe, però, e magari anche perché non utilizzare, come ha proposto il direttore del Museo Egizio di Torino, i musei come aule scolastiche, cioè per alleggerire la didattica nelle scuole, non so, fatevi venire in mente qualcosa. Caro ministro Franceschini, ancora non ho avuto una risposta su questo, ma continuiamo sui musei. E detto questo, Bruni, per concludere con lei, mi sembra che il punto più, invece più delicato, ancora più oscuro, è come si fa a fare politiche selettive, cioè chi sceglie chi salvare e chi invece lasciare sommerso. Certo, è un problema di governance, ma intendiamoci, quando si arriva poi al dunque ci sono delle evidenze ovvie. Cioè, però come idea del futuro devi anche pensare all'Italia. Sì, certo. Quindi non ci sono dei casi in cui proprio non c'è da discutere. Poi ci sono tantissimi casi difficili, soprattutto fra le imprese medie e piccole, e questi bisogna giudicarli con dei criteri precisi, con grande indipendenza e resistendo alle pressioni politiche, alle lobby, eccetera. Sì, vabbè. È il mestiere dei banchieri, intendiamoci, il mestiere, sì, alla fine mestiere, ma infatti bisogna coinvolgere anche i grandi gruppi bancari, tornando al recovery, e dire a voi che date credito poi. È quello su cui io sono preoccupato, non è sul singolo dettaglio, perché ancora c'è un silenzio. Io vorrei sapere che i banchieri italiani da Messina in giù sono già stati convocati, che le associazioni imprenditoriali sono state convocate, ma concretamente abbiamo in mente questo, i confronti con il mondo del commercio, il turismo. Poi non riuscirai a far contento nessuno, ma basta ragionare, siamo ancora al tema della governance e ancora non si sa esattamente nel concreto, dobbiamo saperlo entro fine gennaio. Che cosa arriverà? Nel frattempo continuiamo a cercare il ministro Franceschini per sapere cosa osta l'apertura dei musei, visto che abbiamo avuto gli spritz anticipati alle 17. Noi ci risentiamo domani, grazie intanto a Franco Bruni, all'economista Franco Bruni.